tutto dentro e poi mi accorgo che non ho parole. Non c'è poesia, solo malinconia e malumore. E resto qui tra le mie mani il resto del dolore. E resto qui tra le mie mani una contraddizione. C'è poesia né voglia di averti.